Lillo, su che andiamo. Oi, Lillo, Lillo. E beh, Lillo. Su che andiamo, su, su, Lillo, Lillo. Dragoncito Roya, ahí le quita un poquito más todavía, ahí le quita un poquito más todavía, ahí Roya. Uy, Lillo, Lili, su que andiamos, su. Vai. Uy, John Maria. Dov'è che vuoi andare? Cazzo, tutti i musci, cazzo. Per carità che frequenza di morti. Bisogna andare via a San Paolo, ci vede che è quello vivo. E tutti curare ci riti, non ve nessuno e tutti curare ci riti. Pensa a crack che cazzo di un tuccio, so. Per carità. Perché hanno esaurito le che, come si chiama? La foglia, capito? Allora sono tutti in assenza. Che se ne vanno allo spirito tutti quanti. Ah, se non ci scendono, si svegliano fra poco. Ancora sono tutti appassionati al mare, dai. Ma cosa al mare? Appassionati all'udito, non al mare. E poi ognuno fa quello che crede. Già mangi in casa io. Ehi, a quel tu io, già mare. E allora? Se mi aveva volte da andare a entrare, vuol dire che sono indaffarati oppure sono da Rigana. Molto indaffarati so. E tu non sei un giardino che lo, questi che sei indaffarato. Beh, io lavaglio, là che sono tutti disoccupati. Anche quelli ci sono, niente. Tutti lavorando non possono essere. Anche quelli ci vogliono. E non come facciamo a parlarne? E beh, già mai sta a posto, sì. Ah, fino adesso va bene, va. Fino adesso va bene, voi, sì? Andava, io me adesso mi sto preparando per i gamberoni. Vale, per Stefano. E poi alle 10, 9 e mezza, 10 e 4, adesso andiamo al lavoro. Allora, c'è dei gamberoni oggi? Me l'ho fatta adesso, devo fare adesso. Tanto bacio un bacio, sempre gare. Già va bene, almeno di tanto bisogna cambiare, no? Non è andato di voi. Ogni tanto ci vuole, Gio Marì. Cazzo, sta facendo caldo ancora, stasera c'è l'arietta, va. C'è l'arietta, non si sta male, dai. E per cui già siamo bene, dai. Però durante il giorno fa caldo. Durante la neve viene da morire, qui sono 33 gradi. Durante il giorno c'è da morire veramente. Piglia dell'ombrellone, al mare, fai fresco. No, già la canotte già si casa bene. La notte già si sta bene, la tintura è che male giusti. E adesso sta cominciando a rinfrescare, per cui la notte, qualche notte farà caldo, ma la maggior parte c'è l'arietta, per cui l'umidità e si sta bene, dai. Sì, quello sì. Vabbè, oggi e domani sono a di notte, poi venerdì, no, sabato, allora, sì, sabato sono dalle 2:30 alle 10:30. Vabbè, l'importante è che ci sia la salute e il lavoro, quella cosa importante. Aspetta, mi sembra che ho sentito qualcuno su fondo, avanti che vuole entrare, no, non ha gana allora. Va la ora asciutta, va. Però andava là, e va fresca, hai fregato. A me che non ha pure la vita, allora come mi sta tucciando. Cambiati la birra, già va bene, dai. E non la posso vedere. Vabbè, già ci vuole. Vabbè, quello ci vuole ogni tanto, insomma, di là. Versate, fresca. Beh, ti ho cogliato, ho tirato l'hai pensato. E non si è tirato, se non ando via, che la viro, non c'è avevo tempo di andare, lo sa, se ne ha fottiendo, io il numero glielo ho dato, lo sa di due si acciama. Io di viaggio a Camilapini. Ciao, c'hanno la macchina adesso, là. Ma la moglie l'ha fatta malviata, a voi è da pico, ma sa. Ho già preso la mia macchina, ma se devi andare in campagna non può andare. Sì, dai, adesso magari ha avuto un po' di spese forse per quello, dai. Ma già se la già si gli urti, là, là. E almeno se la mette a posto e... è comodo per fare le cosettine, dai. E beh, lui la usava per andare in campagna, andava a mangiare il cane e turrava. Poi girava lì Sassari, Buzzi, Scia. E come la sì. E io ho visto che cazzo si dedicava un po' di andava dappertutto, andava. E sa, ha messo anche il casco. Oh, è giusto che meglio essere più tranquilli, dai. E adesso mi sembra che ci vuole il casco anche in queste qua, in queste biciclette elettriche. Oh, bisogna avere. Io già non ne tratto, per cui non ha bisogno di un casco. Ui, mi sono fatto il bocco di Marasucchi, baffatina. Visto là, quelle macchinette che sono uscite, Gio Mario, le stanno facendo vedere su internet. Quelle macchinette senza patente, il cazzo c'è tutto, c'è. Già l'ho visto, è quello com'è quello di Giangraziano. Ehi, un tipo così, bello, cazzo sei mai io. Ma è una macchina, è tutta, alla condizionata, due posti. Già l'ho visto, già. Ma ce ne ha tolto uno anche la Renault per due persone. Però lì ci vuole la targa come i motorini, capito? Cazzo, anche quella è comoda per due persone, però lì se c'è la targa devi essere assicurato e bollata, capito? Però su che gli altri invece non ce ne vuole assicurazione e bollo, capito? No, gli altri no, però vedrai che c'è nella buca nella pizza Burbaghini, lascia perdere, anche per quello già te la tolgo. Cazzo, nella sua buca che mi rimane in manopattini. Ma forse prima o poi mi sembra che abbiano fatto la proposta, adesso non lo so. Vedremo dai. A Fardinà è così, a manco il cazzo un po' di là lo stato, dai. Anche non è mai andato lo stato, la maglia di bocco lo stato, sì. Si mette non maglia di bocco, si maglia a quattro gamasci, e per cui non rimassare mai questa gente. Più nani, più limoni, capito? Vabbè. Le leggi sono quelle, bisogna finirsi alle regole. Io non mi parlo. Anche se c'è la legge, vuol dire che tutti si attrezzeranno, se ce l'hanno questa roba. Vabbè, vanno a venire, diciamo con un cavallo, quanto una busca. Vabbè che un cavallo da mangiare a testa, però cazzo per la rai, quando usciamo con un cavallo dovevo andare a capire un cavallo. Purtroppo sì, e poi faranno anche in conto anche le biciclette, perché stanno succedendo anche troppi incidenti e anche lì metteranno qualche sanzione. Sicuramente faranno anche lì per le biciclette, perché le biciclette le truccano, nel senso che vi cambiano una batteria più grossa, cazzo di arrivare a 40-50, come un motorino. E come fanno ai manofattini, no? Cazzo. Ci sono quelli, le schede maggiorati e ci piazzano quelle schede e camminano di più, capito? Però è un casino, cazzo. Ecco perché succedono molti incidenti, specialmente sui manopattini, che le ruote sono piccoli. Trovo un fossettino e dei ganti e si droccano in un conto. Con quei manopattini io non ci riuscirei a camminare. L'ho provato una volta, per carità. Cazzo, un trabicolo. Perché sono cose rotte sono piccoline, per cui non basta per sentire, voi le strade di Sassari, cazzo, sono tutte appose, a buche, per cui bisogna stare molto attenti, e un attimo, cazzo, e se i camminetti di casi, sono cavoli tuoi, capito? Come tutti i mesi, ecco, sia manopatto, sia bicicletta, sia motorini, capito? Sì, fa senso, si può più camminare, tutto a buche, cazzo, senza vabbindare i gas popolari, ne so fare lì due di biracchi, tutti lì del razzo, ne so fare lì tutti i baciati. E una donna baciata! Hanno fatto questa cazzo di scavi, hanno messo l'asfalto nuovo, ma è tutto a buchi. Cazzo, una macchina, ma dentro tutto una lì, ragazza, per carità. Ma nemmeno, non li aggiustano nemmeno come si deve, ragazzi. Uia, è così, è Bettore. Buonasera a tutti e due, se siete in due. Attore, è Bettore. Certo che si sente. Ma i turnieri arrivano. Io ho tutta la dieta in turnieri. Cazzo, abbiamo da te. Cazzo, hai sentito, Manuè? Guarda la cavalina in aggio, Mari, visto dai, cazzo tutto bello abbronzato. Ma la faccia a lui, no? Ma raggiungi, cazzo tutto bello abbronzato. Cazzo, secondo tu sei in campagina. Ma che non sei scena, va, emozionato di sì. Oh, questo microfono, appena faccio il volo d'angelo che faccio fare. Ma capo d'angelo, cappa Rubè, cappa, te su Giomari. Manuè, poi cantarrucci i camperoni, poi si il microfono sopra, chiaro ma si buona appoggio. Gruba Manuè, se lo muovo questo microfono. Ogni tanto scricchioleggia, cazzo. Ma l'originale è questo microfono o qualche cosa adattato? L'originale, Gio Mari, perché Massimo mi ascolti? E dillo, non dillo a nessuno, non ci credono. Ora mi ascolta più Massimo. Ma sei assurdo, mi sei. E allora poi funziona bene, dai, vuol dire che funziona bene. Ora si ha messo le cuffie sotto i piedi e per quello si sente bene. Cazzo, ma veramente la sotto l'udito gli andava, dai Gio Mari. Infatti. Va bene, Manuele. E allora tu. Canta. La barzelletta voglio a tutti. Bene, lo vedi un po' tu, dai. Se c'è qualcuno, almeno no. Almeno cazzo faghiamo un po'. Manuele, tu sai che se due anni che si sono cuccati noi. Ne ha desiderato il Tomanzano, lasciando gli appigliati una regna. Sì, già li ho visti, la gente si chiama, da vieni, bene, ha già fatto, ma cazzo la fittenda insomma, ui, già li ho visti, sì, già la giudici, non so cosa l'ha tagliata, però già la giudici. E ci devo comune, però si stanno imbottando, tagliati, si stanno imbottando una regna, fatta a padrone, no? Si sta portando via la regna. Vai tu, per carità. E che ha preso farà di sto do, un dì? Hai preso, arriva, è preso. L'hai fatto a pezzi, il tuo manzano. Ti si è pigliato, è giunto, si è caricato una macchina. Ma, se toccano le cose, le ruote toccano in giotta a rubare al fango. Su apparello. Vabbè. Ah, ma cosa contenta che faccio la provincia della regna? Ma non era la gioia però, che non andava a Edo. Che i nonni della regna toccava di se li sacchini i nonni vicino. Ma qualcuno dice via, to, cosa vuoi fare? Meglio così, dai. Se no, da stare qui per farti mattello. Va bene, lo puliscono. Emanuele. Sai cos'è? Chi ti sei giunto? Mudo si è caricato la macchina e si sta portando tutta la regna, si sta portando. Ma vai, chi si chiama venere? Se ci ha fatto senza abbia la regna. Ma è solito, ma sono fatto fanno così, Cazzo, mi sono lì, gli avvoltoi, cazzo, quando la legna è comodo, Cazzo. Ecco, c'è un bel furo, che hanno fatto bene, se l'hanno portato via. Ma se no magari c'è un mese di la legge a capattire. Ma non so se un mese, no. Non so se un mese, perché veniva da che vicino e se ne abbussavano. Cioè che non toccava chi si bussasse zira. A chi si veniva lontano bene. Ecco cosa è. Io ho detto, ma gli aspettava questa legna qua? E già mi aspettava, ha detto, no, gli aspettava, perché c'è gente qua che la voleva, e lei se ne ha approfittato. E se gli vengono i vigili a casa, cosa gli fanno? Ah, oh, non mi fate di nulla. E dice, vabbè, tanto ha subito il numero di andare, che gli ho fatto la fotografia. E dopo te la puoi ricordare, c'è la fotografia a tu. Non mi ha ragione, se hai appena dato i vigili, ma c'è anche che non la puoi toccare. Ma lo sai che non la puoi toccare? Ah, fossi così di so. Ah, fossi così, lascia fa, fregatene. Ma che da voi magari ti faccia il ciampichino di un fettente, cazzo. E vi sono sempre problemi, cazzo, là. Ma ci frega, lascia fossi così. Ognuno versa le cose sui. E infatti, me ne ha fatto nulla, ecco cosa è. Ma se ci aveva voluto non aveva toccato. E poi specialmente che è roba comunale, per cui cosa mi fa? Avanti Emanuele, ma rottendi sì. Si è allontanato Giovanni. Famiglia, ha forse i gamberoni saluti Ah, infatti. Io ho una dieta che ho preso a me nei buddi, che è una bicicletta mia, ogni giorno toccava dalle attenzioni. Oh, e mi vedeva, mi ha domandato il piacere, chissà che mi ha portato la sua dieta giù così. E cosa mi fa? Cosa ci vuoi fare tu? Purtroppo così? Purtroppo è così, sì. Ah, lui. Arrossetti sì, aiù. E ha detto che si assentava un attimo, mi ha detto. A te, perché che vuoi la strada avanti, sei matto matto. Oh, ogni tanto sta facendo il culo, però è matto, ma non lo arriva tanto bene. No, è manco raccolto. E deve essere un bel lontano, con qualche portato. Ma non arriva bene, a momento arriva, però matto matto non so chi è. Avanti che vuole entrare, ha visto a pigliare l'atto. Deve essere una propagazione qualcuno di fuori, deve essere. Quindi, oggi è un bel evento, va, si è pigiato. Anche l'aria sta fresca, là. E anche, è un bel fortino, no? Mi sa che ti è giunto un fuoco di maestrale. Almeno questa un po' d'aria fresca, oggi. Durante il giorno però c'era caldo. No, fino a stamattina c'era caldo, stasera un pochino, però si è pigiato il vento, chissà che non comincia. E domani pigia ancora, appena glissato domani è l'aria. Sì, infatti è così. Fiorelli. E male che c'è il cugino di Germania, si offende. E a chi arrivi si va a travagliare. Che deve prepararlo, certo, a me riesce a digerire un po' carino, a mangiarsi i gamberoni. Infatti è così, infatti è così, un po' di gamberoni. Certo, no, vabbè, a me questo sacchetto si rimanda di più ancora. Già è un poco massimale, ma non la femmina gravita. Andiamo a vedere, mucchietta, bambù. E allora, è tipo una forchetta, e poi, chiatta. È tipo una forchetta. Infatti, è tipo una forchetta, sì. Deve allattare ancora, capito? Per cui deve riportarsi. Infatti. Andiamo. Ah, vai, succede, e si ne ridete. Io non credo se ne ridete. Se ne ridete. La scaletta. Purtroppo. È così, da febbre fa. Infatti. Sono per Mudebigio. Tanto se devi mangiare, puoi andare a travagliare, se devi riposare pure un po' carino. Io le vedo solo la pasta piena. Chiedete un po' di giri, un poco, fare un po' di riposo e un po' di movimento. Infatti è così. Vai già per fresco la notte, per cui è più tranquilla. Magari prima no, prima però bevi il calcio e non respirava bene. Aveva respirato tutti a quattro bocchi. Ci andiamo e andiamo, dai. E allora, cioè, è così, è giovane ancora, è giovane, deve diventare più male ancora. Io giovane, purtroppo, così ci facciamo. E allora, per carità. No, sta entrando bell'aria fresca, cazzo, un po' boe, ci vuole, dai. Io avevo steso la fettola e stato aggiornato con il posato un poco. Però dopo ha cominciato a entrare aria fresca nella situazione. Allora ghiacciamo un po' di fresco e cose, speriamo di no, che non mi possa venire a che cosa. Perché lunedì devo andare a fare degli analisi, devo andare per il cardiologo. Quindi su mesi mi tocca la visita al cardiologo. Otto! Dimmi Gian Marì! Ci avevo una videochiamata, dai! Oh! L'unica strada. Cosa? È mia figlia che mi ha fatto vedere una questione, là! Guarda, sei qua, sì! Sì! Avevo il figlia e basta! Passa sul 23! Ma io sul 23!